Radio 24 Reportage. Congo, cuore di tenebra, di Giampaolo Musumeci. C'è un cuore pulsante in Africa, un cuore ricco, ricchissimo, che batte lì, nella regione dei Grandi Laghi, fra foreste impenetrabili e vulcani incandescenti. Un cuore fatto di coltan e diamanti, oro e legni pregiati, terreni fertili e paesaggi straordinari. Il Kivu, la regione ovest del Congo, al confine con Uganda e Ruanda, è il cuore insanguinato dell'Africa. Ha osservato da vicino il genocidio ruandese del 94, ha accolto i fuoriusciti responsabili di quella tragedia e da 10 anni rivive l'incubo del conflitto etnico Hutu-Tutsi. Il cuore dell'Africa, più profonda e antica, oggi batte all'impazzata, furioso e rabbioso. Oggi, nel cuore di quell'Africa, contesa dalle grandi multinazionali anglo-americani e cinesi e da 1000 interessi diversi, si combatte ancora, a colpi di Kalashnikov e di macete. Lì, in Kivu, batte il cuore di tenebra dell'Africa più tragica e nera. Questo è il racconto del nostro viaggio. Passare la barriera di Goma tra Ruanda e Congo è come buttarsi indietro il passato. Lasciamo un paese in cui l'aria è ancora intrisa della paura per quello che è successo 14 anni fa. 1 milione di Tutsi massacrati dagli Hutu, 100 giorni di sangue e terrore. Ora, un paese che è sostenuto dagli americani guarda avanti e vuole liberarsi dall'impronta francese e abbracciare quella a stelle e strisce. Il Ruanda è in fermento, si costruiscono strade, si commercia, si alimenta il turismo e negli alberghi e alla frontiera ci salutano con un good morning e non più con il bonjour. Passiamo il confine al mattino. Qui infatti si passa solo di giorno. Alle 8 di sera la barriera viene chiusa. In Congo si torna a parlare francese. Pochi chilometri percorsi e l'atmosfera si fa improvvisamente pesante. Stanche pattuglie ONU di soldati per lo più indiani e militari governativi dall'aspetto minaccioso sono di pattuglia. Qui a Goma c'è un'ombra lunga che si stende sulla città e che si chiama Laurent Kunda, il generale Tutsi dei ribelli che da settimane tiene in scacco le forze governative. Aris è il nostro autista. Qui a Goma ora la situazione è un po' più calma in confronto al mese scorso. La cosa inizia a rientrare, ma più all'esterno l'accessibilità è un po' difficile ancora. Comunque penso che in futuro l'agitazione potrebbe rientrare e speriamo bene. Dunque pensi che ci sarà la pace? Ma non so se ci sarà la pace, perché proprio lì, sull'asse nord, ci sono ancora scontri che sono ricominciati da ieri e non sono proprio sicuro che ci sarà veramente calma nelle prossime settimane. Però speriamo che l'intervento delle Nazioni Unite possa servire a qualcosa. Goma prova a vivere una normalità all'ombra della guerra che incombe, una normalità fatta di piccolo commercio, di chioschi, di mercati e di ristoranti. Ma l'economia, quella che pesa, ora la fanno i Musungu, i bianchi, ONG, cooperanti e Nazioni Unite che affollano gli alberghi e i costosi locali, dove anche noi possiamo gustare carne alla griglia e birra ugandese con $20, molto più di uno stipendio mensile medio, e dove le ragazze sono pronte a farci compagnia in cambio di qualche drink. Lungo la strada che esce da Goma e va verso nord campeggia un cartello, Ente del Turismo del Nord Kivu. Ci accoglie responsabile, un uomo alto ed elegante, tutto formalità e sorrisi. Donc on est dans l'Office National du Tourisme, ici à Goma. À Goma, agence provinciale du Nord Kivu. Diciamo che la domanda è: siamo in guerra, la situazione è veramente drammatica. Che cosa può fare il turismo ora? Che cosa fate esattamente? In effetti noi siamo qui per la promozione del turismo in Congo, ma con la situazione della guerra siamo nell'impossibilità di svilupparlo, dato che non c'è sicurezza. Dove non c'è sicurezza, è chiaro che manca anche il turismo, soprattutto internazionale. Lei è di qui, di Goma? Sì, in effetti sì, sono di Goma. Dunque significa che voi conoscete molto bene la regione e anche la storia sanguinaria di questa regione. Che soluzione vede nel futuro? Vede la pace? Insomma, che cosa vede? Sì, molto presto spero che ci sarà la pace, dato che c'è l'intervento e la pressione della comunità internazionale. Speriamo nella pace. Si è scritto che il motivo di questo conflitto è etnico e si scrive sempre che ci sono problemi Hutu-Tutsi. Questo è vero o è solo una copertura? Io personalmente direi che è una copertura, nel senso che quando il gruppo del CNDP arriva da qualche parte, Non distingue se uno è Hutu o di una tribù piuttosto che di un'altra. Loro uccidono, uccidono, soprattutto chi si muove. Quindi abbiamo capito che è una copertura. È una copertura. Voi, per esempio, di che etnia siete? Io sono originario del sud Kivu. Mi riservo. Ma in ogni caso sono congolese. Sono congolese tout court. Je suis congolais tout court. Capiamo che ci sono domande che ancora scottano qua in Kivu perché riportano alla memoria sangue e dolore. Questo è un paese che deve dare ancora tante, troppe risposte. Perché si muore in Kivu? Perché si soffre? Perché si uccide? Perché c'è fame, tanta fame, qui in un paese che è il più ricco dell'Africa? Eugenio Balsini, responsabile regionale del COPI, ci fa da guida nel nostro viaggio verso nord. Questo è un checkpoint indipendente? Dalla guerra. Cioè, ah, c'è comunque. C'è comunque. Anche quando non ci sono spari, eccetera, quando non ci sono battaglie, questo checkpoint funziona sempre. È controllato dalla polizia e dall'esercito. Sì. Ah, questo è quello, ma ci sono nemici qui. Noi possiamo passare tranquillamente. Infatti ci aprono la sbarra, i soldati non ci degnano neanche di uno sguardo. Qui è pieno di camion, pieni di merci, qua c'è legno, un sacco di gente sopra. C'è del commercio. C'è del commercio. La ragione del commercio è che più avanti ci sono due entrate per il Ruanda. Sono un'entrata per il Ruanda e un'entrata per l'Uganda. Quindi sono due passi doganali che vengono utilizzati ora in questo momento per portare merce in Congo, e naturalmente una buona parte di questa merce arriva a Goma. Ci sono anche prodotti di produzione locale, tipo il legno, tipo alcuni prodotti alimentari, eccetera. Allora, poi vedremo più avanti, si va in una zona di grande produzione agricola. Usciamo così da Goma e il centro Don Bosco, diretto da Don Perez, è proprio qui, alle porte della città, vicino, vicinissima alla linea del fronte. I salesiani sono in Congo da quasi 100 anni e Don Perez è uno che conosce assai bene la situazione del paese. Il Congo è un paese che viene da fare l'elezione. Sono state delle autorità scelte democraticamente, in modo meraviglioso. La gente si è messa tutta per, pensando, credendosi a questo. Adesso sono un po' deluse. Per ricostituire anche il paese, bisogna ricostituire anche la fiducia della gente in un processo democratico che ci vorrà del tempo. Bisogna ricostruire anche tutti i servizi pubblici, salute, via di comunicazione. Allora, io penso che sarebbe importante se la comunità internazionale, gli organismi che si investono, quando danno un aiuto, eccetera, che tengano conto di questi aspetti, no? Educazione, ricostruzione della famiglia, delle case, servizi pubblici, via di comunicazione. E anche le possibilità del lavoro, che tengano conto che guardano che c'è una sicurezza, che c'è un minimo di stipendi, che c'è un aspetto anche sociale, non solo di produzione, ma che guarda a costruire ciò che può aiutare la società. Adesso molta questa gente che è scappata in villaggio, sono nei campi, e nei campi vanno voglia studiare, sono solo da attività di occupazione che si fate dagli organismi e che sono quelli permessi. Ma è importante dunque che possano continuare a studiare. E poi se c'è la pace e che ritornano ai villaggi, c'è tutto da ricostruire, anche le scuole perché possano studiare. Ma è anche ricostruire la famiglia, vuol dire ricostruire le case. Certo. Dunque c'è un investimento, molti bambini non hanno esperienza di che cosa sia una casa. Dunque sono da 2, 3, 4 anni che scappano da un luogo a un altro. Quando le chiede di dove sei, qual è la tua casa? Descrivono un pezzo di plastica o delle foglie di banane dove hanno dormito o hanno passato qualche giorno. I bambini e gli adolescenti sono il futuro e le fondamenta di una società. E che paese è quello in cui i bambini e adolescenti vestono una divisa? I baby soldato sono utilizzati un po' da tutti in questa guerra e tutti negano di usarli. A pochi chilometri da qui c'è la linea del fronte. A pochi chilometri da qui sono pronti a sparare ancora. Ci vogliono sì i Kalashnikov, ma ci vogliono anche mani che lo sappiano usare. E il Kalashnikov è un fucile facile, facilissimo. Non si inceppa mai, non c'è sabbia o acqua che tenga. Insomma, è così facile che lo può usare anche un bambino. Sono dei mostri che abbiamo creati. Provano a recuperarli, baby soldato, provano a far dimenticare loro che cosa vuol dire premere il grilletto. Qui li vediamo che giocano a pallone, che vanno a scuola, ma in quegli occhi vediamo ancora tanta paura e tanta rabbia che cova nascosta e che a volte però una danza di gioia può provare a lenire. Ma il nostro viaggio nell'orrore segue la direzione nord. Il nostro viaggio nell'orrore prosegue verso Rushuru e verso Kiwanja, dove si sono consumati gli ultimi tragici capitoli di questa guerra. Passiamo alla barriera di Goma. Stiamo ora entrando nella zona, diciamo, di cuscinetto. Questa zona non è controllata da nessuno? Sì, questa è controllata dal Fardese. Ah, ok. Tra poco troveremo la prima linea della Fardese. Quindi soldati in assetto di guerra. Okay. Li vedrete che non sono come quelli che abbiamo trovato prima in relax. Sì. Sono armati bene, sono lì. Sono pronti. La strada è un continuo via vai di militari, a piedi, in motorino, sui camion. Gli eserciti qui non hanno una logistica, si arrangiano come possono e spesso il nostro lascia passare è un piccolo cadeau. Sono sigarette locali, nazionali locali, con filtro o senza filtro? Con filtro. Di cui i guerriglieri vanno particolarmente ghiotti. Si procurano il cibo giorno per giorno, quindi trovi sempre in giro dei soldati che vanno a procurarsi l'acqua, vanno a procurarsi le cose da mangiare. Certo, vivono in simbiosi praticamente con i mercati locali e con i campi di déplacé, che poi alla fine il campo di déplacé rappresenta effettivamente anche un microcosmo economico. Certo, perché nascono mercatini, cioè interscambio, eccetera. I soldati qui ogni giorno si devono procurare l'acqua, si devono procurare il cibo. E se c'è un campo di déplacé che ha l'acqua potabile, è chiaro che vanno a prenderla lì. E così arriviamo a Rushuru, nel cuore del territorio controllato dai ribelli. Siamo a 2 ore di jeep dalla capitale Goma. Oggi il generale Nkunda è qui, ma lui e il suo staff si spostano di frequente per motivi di sicurezza.